Allora, les amis di Extra Extra, benvenuti alla sesta puntata, questa volta me lo sono letto, e quindi sesta tappa di Tour de France, vittoria di Dylan Groenewegen, questo per dire che siamo in diretta, come si fa nelle trasmissioni vere, e ha senso nello specifico esplicitare questa cosa perché questa puntata è vagamente indifferita. Vi spiego perché, il motivo è che nei quattro giorni che ho trascorso sulle strade del Tour de France ho cercato ripetutamente di riuscire a incastrare per chiacchierare un po' per questo podcast e non soltanto, anche per quello, scusate la pubblicità, che abbiamo realizzato le tour in Italia per Al Vento, e vi invito ad ascoltarlo se avete molto tempo a disposizione, perché sono 2 ore e mezza, ma mi ha entusiasmato e divertito molto farlo. Avrei voluto mettere, insomma, in entrambi questi tipi diversi di file audio, chiamiamole così, quattro parole con il nostro carissimo amico Jacopo Guarnieri. Purtroppo i ritmi del Tour de France e di diversi lavori da fare ci hanno impedito di registrarci una chiacchierata, però ci siamo sentiti tutti i giorni, ci siamo anche incontrati un paio di volte. Ci tengo a specificare che Jacopo era per distacco la persona più elegante degli arrivi di questo Tour de France, era in giro con la giacca, con dei cappelli super stilosi, insomma. Ha dato lezioni di stile, insomma, a quelli che non sono suoi colleghi, non sono neanche miei colleghi, ma sono le figure che popolano così questo recinto che al Tour è gigantesco degli inviati delle televisioni. Ecco, questo mini podcast è un esperimento, quindi cambierà forma più e più volte, cambia forma anche questa volta, succederà anche un domani. È anche una scusa per giocare un po' con questa cosa dei podcast che facciamo da tanti anni, ma non abbiamo ancora imparato davvero come si fa, per cui così, giocando, sbagliando, si impara e ci si diverte un po' in queste giornate estive di Tour de France. Quindi l'esperimento di oggi, che farà inorridire tutti gli appassionati di hi-fi e di qualità audio, è una intervista asincrona, nel senso che ieri chattavo un po' con Jacopo nel corso della tappa. Jacopo era in viaggio per tornare a casa da Lione, dove aveva preso il volo per tornare a casa sua in provincia di Piacenza, e gli ho mandato qualche domanda e mi sono fatto mandare dei vocali in risposta. Quindi è una specie di intervista asincrona e una non chiacchierata, mettiamola così, che non può che partire inevitabilmente dalle sue impressioni sulle giornate in Italia, che ci sembrano già lontane ma si sono appena concluse, con un'attenzione particolare chiaramente a quanto può essere stata diversa l'accoglienza del Tour in Italia agli occhi di uno come lui, che da corridore ha già affrontato 2 giri e 6 Tour de France. Allora, queste tappe italiane le ho vissute come spettatore in TV, perché essendo venuto a lavorare non ho visto proprio nulla. C'era un sacco di gente sul San Luca. Ecco, a Bologna ero abbastanza vicino all'arrivo con la carovana, insomma, mediatica, non so come si chiama, il TV compound. C'era un sacco di gente, a Bologna c'era veramente tanta gente, bello, bello. Piacenza non ho visto niente, non ho cercato niente, quindi non mi chiedere niente. Ma accoglienza diversa, forse ho visto tanta gente, cioè tanta più gente, e soprattutto l'investimento, tra virgolette, se banalmente deve rientrare, queste maree gialle ovunque. Il bello del tour è che c'è talmente forza mediatica che anche la gente l'ha percepita, quindi se sai che c'è tanta gente, altra gente ci vuole andare, cioè, capito cosa voglio dire? Cioè, proprio è un cane che si morde la coda, ma nel senso positivo del termine. Jacopo naturalmente avrebbe voluto essere al tour, avrebbe voluto partecipare a queste tappe italiane, la storia ha voluto una cosa diversa, ma prima di arrivare al suo nuovo ruolo, gli ho chiesto, al suo nuovo per queste giornate, gli ho chiesto come si fosse avvicinato a questo tour che aveva preparato come corridore e poi che ha affrontato appunto con un ruolo differente. Dunque gli ho chiesto, me ne scuso, di ripartire da lì, dall'esclusione dai convocati del tour che ha fatto molto male. Beh, ovviamente sono girati ampiamente i coglioni per non essere alla partenza. Diciamo che l'ho vista arrivare, insomma, quando vedi la fregatura, no? È partita da lungo tempo, long time ago, adesso sono stato troppo con gli inglesi. Quindi l'ho vista arrivare, però diciamo che c'erano tutti i presupposti per un plot twist, nel senso che, sai, quando ti lasciano fuori e comunque il leader delle volate ti vuole, insomma, ti lascia veramente l'amaro in bocca, però insomma nessuna sorpresa, insomma si riconferma anzi quello che, quello che di negativo c'è stato finora, quindi grossa delusione, ma ripeto, non è stata una sorpresa. Ci sono arrivato bene, nel senso mi sono preparato bene. Allo Svizzera andavo veramente forte, sono venuto a casa, come si dice, in forma precauzionale, perché comunque ho preso un forte raffreddore e sembra un controsenso, ma mi sono ritirato per avere comunque delle possibilità di andare, nel senso che se fossi rimasto lì sarei andato sempre peggiorando con la salute. Invece mi sono detto no, vai a casa. Poi non è stata quella comunque la scelta, comunque l'episodio che mi ha lasciato fuori, però mi sono rotta talmente sì che praticamente ho fatto come i trattori, sai, quando fanno girare, non so come si chiama, quell'attrezzo lì che sposta il fieno prima di creare le file per poi fare le balle di fieno, ecco, io giravo così. E dunque il ruolo di Jacopo Guarnieri è cambiato e come talvolta capita, anche dalle delusioni possono nascere nuove opportunità, no? È ovvio che Jacopo avrebbe voluto correre questo tour, nello specifico questo tour, appunto con una tappa che partiva da Piacenza che sta a una trentina di chilometri da casa sua. Però ecco, da questa dolorosa esclusione è scaturita un'avventura nuova, che sono state le quattro tappe che ha affrontato da opinionista per ITV, che è il canale britannico che manda in onda le dirette del tour, ed ecco com'è andata. Allora, con ITV praticamente la mia connessione è stata Daniel Friebe, che tu stavi intervistando ieri o l'altro ieri, che è questo giornalista, penso freelance, che comunque lavora con loro a fare interviste sia all'arrivo che in partenza. Durante il giro ha visto il mio agente, il mio manager, che è Manuel Quinziato, e gli ha chiesto se cosa facessi durante il tour. Siccome, come ti dicevo prima, avevo già mangiato un po' la foglia, ho detto guarda, spero di andarci, però non lo so, non credo. E allora mi hanno chiesto se volessi andare, visto che comunque parlo, penso, abbastanza bene inglese. E quindi è nata questa cosa, e sta cosa, cioè, questa esperienza è stata veramente figa, nel senso che mi sono stradivertito, è un approccio completamente diverso. Poi con gli inglesi, quindi, cioè, finire di lavorare, c'avevano subito una birra in mano. No, è stato molto bello, avevo delle persone accanto secondo me molto brave perché avevo un netbolting che magari in Italia non è così conosciuto, David Miller invece sì, magari qualcuno si ricorda anche di Peter Kenyak, che erano due ex ciclisti, però cioè, sono veramente dei pezzi da 90, nel senso sono bravissimi e quindi quello che dovevo fare io, che non sono minimamente un professionista di quelle robe lì, è stato molto semplice. E ho scoperto sicuramente un mondo enorme dietro, cioè, mi hanno parlato di tipo 5.000 persone che si muovono intorno a tutto il reparto mediatico, quindi tutte le varie TV, le persone che gli danno da mangiare, le persone che le fanno parcheggiare, che montano i truck, che una roba allucinante che io non ho mai, mai, mai visto, quindi assurdo, cioè, la mia prima reazione è stato cosa? Tutto questo? Cioè, quando arrivi, tu lo sai perché ci vai in giro, Filippo, quando ci arrivi, ci sono tanti di quei cavi che tu dici, ma quando devono smontarli? Ma come cazzo fanno a sapere qual è il primo che devono sganciare, che devono scollegare? Allucinanti, sono chilometri e chilometri di cavi. Devo dire che mi fa molto piacere sentire queste parole di Jacopo perché sono comunque felici, anche meravigliate, e appunto si partiva da una delusione, una delusione che sicuramente resta, ma che quantomeno ha lasciato spazio anche a della meraviglia. E ecco, a proposito di meraviglia, a proposito di una figura meravigliosa, diciamo, già che c'eravamo, non ho potuto esimermi dal chiedere a Jacopo, che è un suo compagno di squadra fidato, come ci ha detto, qualche parola su Arnaud Delì. Arnaud Delì è un corridore che a me piace da morire perché mi dà l'impressione di poter vincere potenzialmente davvero qualsiasi corsa, ma anche perché quando ho avuto l'occasione di scambiarci qualche parola, eravamo alla festa d'addio di Philippe Gilbert. Delì, che aveva in Gilbert il suo idolo, e fu l'unico tra gli ospiti che venne anche a partecipare alla pedalata amatoriale, tanto voleva starci in mezzo e tanto è, e ce lo ripeterà anche Jacopo, una persona umile e simpaticissima, per cui mi aveva già colpito allora e sono particolarmente felice quindi che oggi, quando ricordiamoci che ha solo 22 anni ed ha le primissime esperienze in un grande giro, stia già correndo da protagonista e come sentirete dalle parole di Jacopo, non sono il solo. Oh, De Lili, a me piace da matti, nel senso che è un, cioè, al di là di quello che è come corridore, che nel senso di corridori tenaci e forti, ce ne sono tantissimi, a me piace tantissimo come persona, perché è molto, molto modesto, nonostante sia estremamente deciso e comunque carismatico, è molto, ecco, terra terra, non è modesto, sa di cosa vale. Ed è però veramente una brava persona, nel senso che è molto semplice, molto spontaneo, genuino. E Limiti penso che non ne abbia ancora, dispiace veramente che gli vengano messi più che altro dalla squadra, nel senso che tutto l'anno gli hanno ripetuto questo mantra che non era un velocista, cosa che secondo me invece è totalmente, cioè secondo me lui è un buon inizio carriera, cioè questo qua è un corridore che potenzialmente potrebbe vincere Fiandre, Roubaix, però velocista, poi magari con gli anni sarà una cosa che perderà come ha fatto Bonen, ma adesso è prima di tutto anche un fortissimo velocista. Si è piazzato, potrebbe fare molto meglio, potrebbe, cioè le gambe per vincere ce l'ha, quindi forte, forte, fortissimo. In conclusione, come se fosse un'interrogazione, una di quelle che riuscivamo a superare anche noi non studenti eccellenti, però visto che siamo in giornate di maturità e anche azzeccata, ho chiesto a Jacopo una domanda a piacere. Gli ho dato però qualche dritta, insomma, qualche possibilità da cui scegliere e non avevo dubbi, conoscendolo, che sarebbe andato a parare sulla mia proposta di suggerire lui a noi degli ascolti per queste giornate, per queste prossime settimane di Tour de France e non solo. Allora, come seguire il tour? Nel senso, io oggi ero in viaggio di ritorno, questo qua, stiamo parlando quando il giorno di Kev, e io non l'ho vista, ce l'ho vista un'ora dopo, perché poi ero in viaggio verso casa, quindi la storia è fatta, anche questo problema ce lo siamo tolto. Non lo so, allora ascolti, sarà che l'ho appena ascoltato in radio, cosa che non faccio mai, ma non ero in macchina, non guidavo io, quindi non ho potuto rompere le balle, però sono partiti Mano Negra, che è la prima band di Manu Chao, che adesso è ritornato un po' sulla bocca di tutti perché sta per far uscire o ha già fatto uscire un album. Sto ascoltando tantissimo Mano Negra, quindi robe molto, insomma, andiamo un po' indietro perché parliamo inizio anni 90, tanta roba, nel senso che non li avevo mai ascoltate prima di quest'anno, ho iniziato qualche mese fa, e gli Easy Life, che adesso hanno cambiato, scusa, errore, non si chiamano più Easy Life perché EasyJet hanno creato una specie di holding che si chiama Easy Life, li hanno citati in giudizio e quindi loro scioccamente non avevano depositato il nome, quindi adesso si chiamano Hard Life, quindi anche ironia da bravi inglesi. Vi consiglio forse gli Hard Life, sono veramente il gruppo dell'estate, cioè li mettete su partendo dall'ultima che è Teardrop o Tears, proprio è estate, cioè ti chiamano estate, piscina, berrette. Amici, gruppo della Madonna, ascoltateli. Questa puntata di Extra Extra finisce qui. Ringrazio Jacopo Guarnieri per essersi prestato a questo esperimento e per essere con me, perché ce ne vogliono sempre di più di corridori come Jacopo. E noi ci risentiamo domani con Extra Extra, chissà in che forma. Nel frattempo, bonsoiré.